C'era il sole, poi non ne hanno avuto voglia, pazienza. Dati un po' di brio là. Poi a trovare tua zia. Dovevamo andare tutti assieme a mangiare di pulizia, ma tanto fa buio presto, sai cos'è? Fa buio presto, cioè tempo di mangiare, pigliarci il caffè, ammazza il caffè, è ora già di andare via, fa buio. Sì, quello sì. Roba di americani sotto di propagazione c'è Gianni, scusa un attimo che mi cauto lo sportello Macolino Emo, chi è? Natalino, so ma Natalino no, non è possibile, è troppo basso il segnale, o è in trasferta? Parecchio di un amico, va. Ehi, avete parlato in due, uno mi ha mandato anche un bacino in Falcon Style. Chi è? Chi è? Duro, duro. Che baci ti mandano da Bobo Macolino. Ehi, ehi. Lo stavi mettendo a posto Mike, così è. Eia. Eia. No, io l'ho detto apposta, la lampa di brutto già va bene. Ehi, lo so, va, se ma il riposo vuol dire e scendi. Che modulazione mascola che hai da quell'apparato, Natalì? Non ti riconoscevo, sembravi, sembravi tipo Franco, California o simili. Rocco. Rocco. Rocco. Rocco ci sia al guardo, caro. Ai. Sono tutto per capire, amore. Tu sì che mi capisci. Tu sì che ricordi il mio papà, che mi prendeva pugna a testa. Ma Gianni c'era poco fa? Ehi, sì. Ah, ciao già. Ciao Natali. No, adesso sono, sì. Sto sempre all'ascolto io. Cappagatto. Marco Condor. Hai ancora un po' di sole, c'è. Vabbè, ma ormai è tardi. Era fredda la giornata, però col sole, dai. Non è male in campagna. Vabbè, alla prossima fois. KK, va bene, dai. Non è successo niente. Si può rimediare, tutte queste fossero i mali. Sì, infatti. Comunque è bello quello dice Vittore. Quelli belli handicappati a me me li aveva suggeriti. Quelli DSP Flipper, io ne ho provato vari, credo, sono molto belli. Ah, sono digitali, Marco, sono digitali, c'è una pennina. Vabbè, la pennina servirà a registrare, non lo so, via. Ma è bellino quello lì, è molto carino. Anche a batterie si può alimentare? No. Praticamente c'è l'accumulatore, tu lo carichi e poi praticamente ti dura un sacco di tempo carico. L'accumulatore. Ah, vabbè, cioè lo puoi usare solo con l'accumulatore, vabbè, non gli fa niente. Quello interessava, che uno se lo può portare dove vuole, anche in aperta campagna, con un piccolo dipolino, longuare, un pezzo di cavo. Si sente anche con l'antenino suo, però dipende sempre dove sia. A casa si sente anche con l'antenino suo, poi si attacca l'antenna del baracchino, si sente con segnali 9.20, 9.10. Poi con l'antenna del tetto va abbastanza bene. Vabbè, a parte gli 80 metri che sono troppo rumorosi di notte, troppo. Ah, Ma io vado lì, 40 metri, 40 metri ascolto benissimo. Oggi per la prima volta ho sentito modulare in 12 metri, 24.9.9.30 o spicciole, una cosa del genere, 12 metri, non avevo mai sentito modulare, solo modi digitali, e oggi c'era un radiatore, stava facendo DX da lontano, non so da dove fosse. Non nemmeno io. E in molte frequenze si sente ancora CV doppio. Il CV doppio è all'inizio di ogni banda. Tra una banda e l'altra. Per esempio, di solito all'inizio della banda, per esempio 28 MHz fino ai 28,3 circa è CV doppio o modi digitali. Lo stesso in 20 metri, lo stesso in 40, cioè la prima porzione è assegnata, o comunque si usa usare il CV doppio o quei modi là, dai. Beh, pensavo che fosse già una cosa dimenticata. Invece c'è ancora. Ogni giorno. Sì, perché c'era gente a casa, sì, quando sono andati via non mi sono potuto sbagliare, capito? Sì, comunque ti ascolto e ti abbraccio, ciao, che sto lavorando. Ma chi è Fabio Massa? Ciao Antonio, caro. Ah, io fa uno. Ah, è azzardo, non è master. Ciao Marco. Non stavo preso per un altro, la verità, però mi sembra un po' troppo forte il segnale. Mi avevi preso. Sì, scambiato, dai. Qua ci sei? Ti mando i carabinieri, Marcolino. Lascia perdere, che sta chiamando un giorno sì o uno no a casa, lo sai. Si sta tentando me e mamma dice, Marco è fuori, è uscito, a valla. Perché ancora vivo? Sì, vivo e vegeto. Forse è anche più attivo di me fisicamente, nonostante sia ingrassato. E lui credo sia alle soglie di 70 anni, se non sono 70 sono 69 anni. E siccome c'ha problemi col decoder che non vede i canali, voleva che andassi io. No, a sorso. Che chiama il tecnico, i soldi già ce li hanno, se non si attacca come le zecche, lo sai. Lo so. Dai. Vi finisco qua che sto terminando, sennò poi non capisco più niente. Ciao, vi ascolto, poi rientro. Sì, altro che decoder, mi vuole fare il gioco della calzetta, capito? Vuole ricordare i vecchi tempi. Vai Natalia. E tu perché hai dato il numero? Vabbè, no, lui chiama a casa, il numero storico di casa che lui aveva già all'epoca. Prima le dà il numero questo Marco Condor, poi si lamenta che lo chiama, bubu. Infatti l'ho detto, ma no, non dare assolutamente il numero dello smartphone, non esiste, non dargli nulla perché sennò guai. Dallo a me che glielo do io. Non è fatte. Ma che appare che stai usando altro? Perché sto uscendo male? No, ti ho riconosciuto al modo di parlare perché sennò non ti avrei riconosciuto. Ma io ti ho fatto una domanda, sto uscendo male già? Assolutamente no. Ah, no, perché ci sto ancora mettendo mano. Se no, ho detto, tutta la serata che ci ho buttato, dopo mille anni non è servita a niente. Che appare che stai usando? Un 44. Me lo stavi mettendo a posto, stavi mettendo in linea. Non accendeva più, ragazzo, quanto fermo, forse 3 anni. Ma tu non c'avevi il 50? No, il 140. 50, ce l'ho avuto ma tanti anni fa. Allora ricordo male. Cioè, ricordo che ce l'avevi, quello sì. Però non mi ricordo da quanti anni fa ce l'avevi. Sì, no, li ho avuti un po' tutti, quelli della linea K. Solo che questo qui, forse l'avevo preso 8-9 anni fa, forse no, anche di più. L'ho usato praticamente un po' in campagna, poi è rimasto fermo lì, ma 2-3 anni era fermo, poi sono andato ad accendere, neanche lo Smith l'accendeva più. C'era bloccato tutto, perché quelli vogliono scaldati sempre, accesi. E adesso gli ho cambiato da quanto alla parte lì del VCO, i condensatori, la farina dello Smith, accidenti vari, adesso sto controllando un po' la frequenza, sto lasciando un po' che scalda e nel frattempo ne sto controllando un altro. Dai, riprendete pure, dai, se no non termino mai qui, anche perché poi dopo domani entro al lavoro e ciao. Ehi, va bene. L'antenna è sempre la stessa. sì, quel bidone piccolino con un radiale, sì, sempre la stessa. Però la voglio togliere perché mi dà un sacco di disturbi, tutto quello che accendono qua, cancelli, sento tutto. A comprati un'antenna come si deve. Oh, da me arrivi bene, ma se ti metti un'antenna come si deve una volta per tutte, almeno puoi entrare la sera. Ma ho la creazione impacchettata già, no, non ne voglio piazzare però qua su, l'avevo pensato per metterla in campagna e poi non ne ho avuto voglia. Ma io mi sono preso la Superlab, va benissimo, è come la Mantova 1, poco QRM, stazionari 1, va benissimo. Ho visto, no, io avevo preso tempo fa la Grazioli, ho detto, la piazza in campagna, era quella impacchettata in garage, già rimane lì. La 5 ottavi? Sì, quella FW, non mi ricordo com'è la sigla. Sì, perché poi hanno fatto la, cos'era, 7 ottavi mi pare. Cioè praticamente è una 5 ottavi con un quarto d'onda più aggiunto. Che roba di 9 metri di antenna. No, io ho la prima, la seconda che hanno costruito, perché la prima non mi ricordo come si chiamava ed era più esile, poi hanno fatto l'altra che è molto simile alla Mantova, che ha quella bobina estensibile, quella lì, FEW10 mi pare, una cosa del genere. Comunque puoi confermare, cioè magari l'hai aperta, l'hai vista senza montarla, materiali eccellenti, certo non è una Venom. Ma stai scherzando, guarda che la busta dell'alluminio pesa e si sente che c'è l'alluminio dentro. Secondo me, a quanto me ne posso ricordare io, secondo me l'alluminio è molto più spesso di quello della Mantova, perché i pacchi della Mantova, che io comunque allora ne avevo preso tanti in braccio, non pesano come pesa questo. E a questi qui lavoravano lì, alla Mantova lavoravano, poi si sono messi a conto loro e hanno perfezionato la Mantova, non hanno fatto altro che perfezionarla, con materiali più robusti, roba in acciaio, eccetera. Quella che c'ho io lo stesso c'ha tutta la parte di sotto, dove attacca il PL, quello che entra nel, questo che entra nel tubo, tutto non in alluminio ma in acciaio. Io ho ancora smontata in garage la Superlab, mi sembra, quella a 16 radiali. No, la mia non c'ha 16 radiali, ne ha 4. Aspetta, forse è la Super 16 della LEM, quella 16 radiali. Ehi, vecchia, dei tempi della Mantova, erano, come si dice, le due rivali. Sì, tutte simili, comunque andavano bene, i materiali erano buoni all'epoca, poi hanno cominciato a imbastardire anche la Mantova Turbo, gli ultimi modelli erano fatti con materiali più alla Carlona, proprio, come dire, non avevano più voglia. La Mantova era buona, ma c'aveva il vizio che si arrugginiva sempre la parte di sotto dove attacca il PL. Sì, vabbè, col tempo, già la Mantova Turbo invece no, la Mantova Turbo marciva proprio tutta in quel piatto che aveva sotto la, dove si collegavano i radiali, marciva tutto e diventava proprio un, come il braciere dove cucini la carne. Sì, la Mantova 5, io mi ricordo che con Fabrizio l'avevamo cambiato quella parte lì, l'avevamo fatta tutta nuova, messo il coso per avventare il PL nuovo e anche il cavo più grosso, e l'avevamo fatta tornare dopo 12 anni un'antenna nuova. Sì, no, anche io ce l'ho una Mantova smontata, mi manca sempre la base, perché c'era tutta quanta, ce l'ho la base, però gli attacchi dei radiali tutti trapanati e prima o poi la troverò qualcuna. E già si trova. Io so di gente che l'ha smontata, però mi sa che quella parte lì per tutti è così, diciamo che è la parte che si usa di più. Sì, l'avevo chiesto anche tempo fa a Claudio, mi ha detto no, anche la mia è già così, quell'altro ce l'aveva cosa, no, la mia proprio li hanno presi praticamente per tutti i radiali, l'hanno martellata nell'alluminio e li hanno anche spaccati, perché se avessero lasciato le boccole intere col radiale spezzato dentro l'avrei traparata, l'avrei rifilettata, cioè non sarebbe stato un problema, ma li hanno proprio, l'hanno sottomessa. Si può fare anche un buco passante per teleradiale, far passare un buco passante in acciaio, come ho fatto io. A me si era sboccolata lo stesso e avevo messo dei radiali un po' più grossetti e ne ho messo praticamente questo burrone passante da una parte all'altra che finiva col dado proprio giusto giusto senza sporgere molto, capito? Ma a vero siete tutti e due, a vero siete? Certo che siamo a vero. Ogni tanto si sente qualche uno, ok? Buonasera. Buonasera. Ciao. No, non rispondo al telefono, ma vabbè. Ma ci arrivo lì? Arrivi. Mi senti, sì? Sì che ti rispondo al telefono, se mi chiedi adesso ti rispondo. Amico me. Bene. Ho visto toccare ieri. Io non l'ho dal giorno dopo del funerale che non lo sento, perché poi sono andato a Cagliari, poi sono stato lì 20 giorni, una cosa e l'altra, e quindi non ho sentito per niente. Sto andando al posto di lavoro. Andare, mi fa piacere averti ascoltato. Anche a me, se vuoi chiamare adesso ti rispondo. Andare. Vai Gianni. Questo riserva si è preoccupato, non si vede più. Dovevo andare a chi ha visto a cercarlo. No, non è quello già, è che dopo un'età non lavoro a Cagliari, poi è successo che è morto babbo e quindi ho dovuto rimandare lì in 3 giorni, quindi sono arrivato in ritardo, è una cosa all'altra, c'erano già dei comitati pronti per l'assicurazione e tutto, era un problemaccio. Cavolo, ho morso tuo padre, non sapevo nulla, condoglianze allora. Sapevo che era ricoverato al Ghero, mi aveva detto tuo fratello, che stava andando al Ghero, passava meglio. No, grazie già, no, è morto il 3 mi sembra, sì, il 4 gennaio. Non sapevo nulla, non l'avevo più sentita Cristian, quindi non ho saputo più nulla. Mi aveva detto solo che l'aveva ricoverata ad Alghero, quello sì. No, non era Cristian CB, perché l'MB40 ce l'ho io smontato, che si è bruciato il trasformatorino di modulazione. Non sono riuscito a trovare da nessuna parte uno usato di trasformatorino. L'altro che gli avevo dato io, l'anno 78, mi ha detto che non funziona più, non lo so. Quindi penso che non ne stia usando. Ma tu? Ma quel gira la ruota, quel pezzettino che ti avevo dato io per alimentare l'antenna delle 4 ruote, ancora ce l'hai? Certo che ce l'ho. Sei stato fortunato che l'ho messo in macchina mia, perché se l'avessi messo in macchina di mia moglie non l'avessi trovato, perché l'ho versata. La mappa per scella. No, guarda, sì, davvero, l'ho visto, forse 2 o 3 giorni fa, ho detto, ma stavo guardando, ma che cazzo è sta cosa? Poi mi è venuto in mente, ho detto, ai mamma mia, era lettino, adesso glielo devo controllare. Domani o dopo te dai, di nuovo, tanto ci sono 2 cosettine da fare e poi te lo faccio avere comunque, perché poi devo andare adesso una settimana a Olbia. No, fa una cosa, sentiamoci, me lo porti tu che devo dare una cosa. Lo so, sì, però io adesso sono libero solo domani. Domani mattina, perché domani sera devo andare in Fiat a firmare il contratto che gli ho regalato metà macchina, mia moglie l'altra metà se la sta pagando lei, e quindi poi niente, dopodomani poi sono di nuovo a Olbia. Va bene, fammi uno squillo, che così almeno ci vediamo e entriamo nel compagno un attimino. Dai, dei parenti che stiamo monopolizzando, scusate che devo finire. Sì, se mi devi dire qualche cosa chiamami, già sono a casa, già c'è il telefono qui adesso, in mezzo all'anche. Andare, dai, ti chiamo, dai, ciao. C'è Natalino, c'è l'altra gente, facciamo girare, se no, voi sindromi, Natalino si è già dormito. Chi è rimasto qua? Un attimo, Giovanni, Marco, ci sei? Ripeti, dai, buonasera. Masso, Santiago 4 e mezzo, la radio è 2. Vabbè, da qua prendo tutto, anche quelli sono sott'ora. Mezzo vai, anche a Uber sono arrivato, mi ha detto, non so se ti ricordi Domenico Tarzaletti. Pagato. E vabbè, con la propagazione ci arriva a stare parti, magari c'è la propagazione. Avanti, Antonio Riserva. Lo ascolto Giovanni. Antu, ma dove sei tirato la chiamata? Avanti Giovanni, siamo arrivati in due. Marco non risponde, quello non risponde, si dormiti ci sono. E lo hai già detto, dimmi se ha migliorato un po', sono pazienza. Un po'. Da 4 mesi sono arrivato a 9. Ma la radio non è altro, vero? No, c'era la radio, anzi, sei 9 e 5 esattamente. Sì, ma radio 0, radio non ne ho. Ce l'hai la radio. Ah, tu fai il rameglio. Quanti fatti sono? No, è 2 fatto, è un picking di 2, figurati, vecchio. E c'era l'antenna e il centro me l'aveva piegata. Poi, la tassa sono finito fuori di casa, ma non si può dire che l'antenna è proprio malmessa, Ma quella grande che avevi tipo un Grand Prix? No, una antenna era questa, è ancora una antenna. Quella che sembra, sì ho capito, quella di Franco? Bravo, proprio quella che andava da ragione. Ma tutta la mezza era, questo campo della Santiago 95, sì. Arrivi bene, l'altra si è molto basso, pensavo che avessi un lineare grosso. Buono attaccato adesso, questo c'ha un po' da fare, però c'è la terza macchina. Ehi, la radio non è che sia fortissima, comunque io ti ascolto. Ehi, Marco, Natalino, tutti i drumiti ci sono. Sveglia Caffè Mauro, cosa sei arrivato stamattina Giovanni? Sì, stamattina sono arrivato. E di salute come stai, meglio? Speriamo, io ti auguro di riprenderti al più presto, dai. Avanti chi vuole entrare. Avanti. Buona abbordante da Buino entra. E adesso piano piano ti sta sparendo la radio. No, ma forse perché c'è anche propagazione, ma quello lì. Ho capito. È ricomponibile, sì, oppure da buttare via. Vabbè, comunque il camper ce l'hai ancora. Che motore c'ha il camper, Ford? Ha Ducato anche un tipo vecchio. È Ducato ha un buon motore, dai, quello dell'Argento 2005. Mi è bruciato. Sulla dupla. Ehi, ho letto, c'è il motore dell'Argenta, quello del 2005, quel Ducato di vero. Vabbè, ma è tipo nuovo, di che anno è? Giovanni, non ti sento più, se mi stai ascoltando non ti sento più. Non ti sento più Giovanni, ti sento più Pio. Via. Ora, ora, ora. Blecco, blecco, blecco, blecco, attento Gianni, attento Gianni. Tu uscirebbe bene, esci male, cara. Adesso sì che va bene. Te l'ho detto, ho cambiato postazioni. Ne ho due, postazioni, due postazioni, cioè, ho capito. Adesso se l'ho vetretta, cos'hai fatto? Te l'ho detto, ho cambiato postazioni, qui lo so che esco bene, capito? Ma sei da casa adesso? Sì, sono a casa adesso. Ah, ecco. Che altro si, che se lo vetretta non sembra arrivato. Cazzo, più di una volta, qualcuno mi ha detto che il segnale era bello più di una volta. Ma stai usando lineare? Sempre tutto attaccato. Ah, ecco, quanti watt? No, è un giro, c'ha sei manopole ed è un giro di uno scatto, diciamo, dai. E 100 watt? 100 watt, quell'altro che usavo prima era 50, quello che stavo usando prima, è un piccolo dettaglio. Comunque questo qua esce chiaro di radio, è bello. Prova a andare più avanti. No, non lo voglio fare perché mi hanno detto che c'è il pericolo di bruciare la radio e dunque non volevo, già stato rovinato anche il 6009, non hai visto? Non dovrebbe, scusa, se allineato bene non dovrebbe fare niente. Se l'apparato esce con meno di 5 watt, va benissimo l'entrata. Devo dargli un'entrata di 5 watt, anche di meno. Anzi, guarda, faccio una cosa, c'è una cosa che c'è un pulsante, vado, lo cerco, aspetta. 1, 2, 3, prova, Gianni, mi ascolti? Sì, io ti ascolto. Ecco, come prima? No, adesso sei sceso di segnale, sei 9. Invece con lineare arrivi fondo scala, quindi sei 9, 9, 5, là, se vedere bene. Questo qui, questo media, mi piace moltissimo, ma mi piace troppo troppo questo media. Lo avrei voluto mettere nel camper, cazzo. Perché è facile, questo conosco bene, capite? Invece questo qui mi chiede, se mi viene 9, fatelo di capito un cazzo. Perché tutto quanto è digitale quello. Sì, esce bene il Midland. Scusa, il Midland? Questo è il coso, sì, ma è Midland, va bene, anche una bella radio limpida, bella. E in cambio non è messo? In cambio non ne ho ancora, no. In cambio, se non ce l'ho fisso a casa, non ne metto, no. Ah, ho capito. Sta facendo solo delle giornate oppure si è rientrato definitivamente? No, sto facendo fatto due mesi e adesso vado per la macchina. Adesso pure abbiamo allungato, piano piano, siamo noi che ho fatto il martedì e si è solo il mio primo. Ah, ho capito. E vabbè, piano piano, dai. A passetti si fa tutto. Sempre fumando stai? No, sempre fumando. Meno male, va. Almeno quello. E io mi sto riprendendo piano piano, sto camminando, adesso sto cominciando a portare anche il cane fuori, quindi un po' cammino, capito? E sto già riattivando un po' la muscolatura, sto facendo anche ginnastica, un po' di fisioterapia. Hai perso un video perché il abbastanza guarda, la mia costituzione è quella, però li ho perso di chili, li ho perso anche perché me ne accorgo quando mi siedo, mi sento le ossa del sedere che mi fanno male perché toccano, ma non c'è più carne. Lo so, però a camminare c'è uno muove leggero, camminando un po' più veloce. Ma io anche con fisico mio camminavo tranquillamente senza nessun problema. fortuna di avere quello che ha avuto, camminavo tranquillo, correvo col cane, cioè, non mi affaticavo, là. Perché io pesante pesante non sono mai stato, diciamo sono robusto ma non sono grosso come dici tu, sono robusto, ho peso 95 kg, 98, là. Sì, come lo dicono anche i dottori, senza ombra di dubbio, se sei leggero, sforzi di meno, eccetera, eccetera. Però, vabbè, cosa vuoi mangiare di lui? Cioè, sto mangiando poco, sto mangiando solo il secondo, prima non ne mangio, pane non ne sto mangiando, infatti dimagrito anche per quello, perché sto cercando di tenermi un po' in linea da quando ho avuto l'operazione, ma ogni tanto vabbè fa la pasta al forno, la mia compagna è... Quella lì non rinuncio, guarda, dico la verità, ho messo questo pasta al forno, me lo mangio la domenica. Adesso questo qui è a Dolori, avanti chi sta chiamando, avanti. Italia, nord Sardegna chiama. Attention my friend, Italy from Sardinia. Se tu riesci a volare acqua e non è più posta. Vabbè, non c'è nessuno. Ma se siamo di tutti già bene, di non rispondere. Mi ero spostato, ero andato al QT a Capicolino. No, è andato in sebusso. vabbè, ti abbiamo chiamato a te, a Marco, c'è il giovane stacco che sta per la tavola e basta. Oh, signore. C'è avuto un rato, prima era di fare i denti, vinti in Dio, dopo non aggiunge subito a nessuno. Stavo facendo la lavatrice già. Ah, ecco. Cara gara, vabbè, ritornato Marco, ritornato l'Altalino, come te la gioca? Sono usciti a piso, avanti Giovanni. Eccolo, saluta io, che grazie. Ciao Altalino, ciao Marco, ciao Marco. Certo, sono sovramodulato gli esti. Allora, qui è Santiago 7, però la radio è nulla, non lo sento, c'è propagazione sotto. Altalino da Marco. Comunque vi ho salutato, Altalino da Marco. Io lo sento, Marco. Ripeto, qua è 7, ma non ha radio, radio 2. E poi la propagazione sotto lo disturba, capito? Qua arriva 9.5, se lo attacca arriva 9.3. Avanti, blu. Marco, mi ascolti, cambio. Adesso è arrivato 8 ed è capibile, però a me non so se mi sente perché c'ho pochi watt, c'è il watt del baracchino. Avete schiacciato Bruno, raga, un attimino. Bruno, dove sei? Stai scendendo bassissimo il radio, è basso, basso, basso. Controlla il macchinino. Avanti, Marco. A me? Sì. C'è un pasticcio di propagazione, più il QRM consueto e... Non sento niente, dai. Ho sentito uno che ha salutato e dice mi copi adesso Marco, ed era Santiago 8. Marco, io ti sento benissimo, bene bene ti sento, eh. Nominativo la zona? Giovanni, al terzo fissile sono. Ah, Giovanni, ma hai aumentato ulteriormente qualcosa? Eri tu quello a Santiago 7 prima, perché non era capibile. Poi c'è propagazione, c'è un macellomi. Ma qua io non sento nessuna propagazione, qua è proprio pulito, pulito, pulito. A momenti chiamano. Va bene, ben sentito, buonasera. Dai Gianni, riprendi tu con Natalino, io sto facendo roba tanto qua. Avanti Natalino. Oh, vabbè. Giovanni, riprendi tu, c'era anche Bruno Uragano. Bruno, stai scendendo un basso di radio, che cosa hai fatto? Bruno? Uragano? Ma è fuori Sassari, perché qua è un segnale inesistente. No, non è fuori Sassari. Secondo me ha toccato qualche cosa, forse il Mackie, esce il masso di Mackie. Deve rimetterci un foglio da 100 euro. Ciao Manuel, mi hai sentito? Ciao, salutone anche a Natalino e a Marco. e oggi lo copio meglio. Ciao Manuele, Santiago 6, Radio 3 ma capibile. Vabbè, non posso lamentarmi, dai Marco, anche nella tua casa non posso fare altro, è già tanto che esce. Ehi, vabbè, meglio così che niente. Io un giorno si è arrivato anche a 8 e probabilmente basta che magari si sposti di poco l'antenna e a giornate arrivi, a giornate no. Non lo so, no, l'antenna è sempre così. Ma che onda? Ehi, la stava miagolando perché? La stavo pezzeggiando. Ah, ecco qua. Quando ne ha voglia è coccolona, quando non ne ha voglia fa capire che non ne ha voglia. Ti graffia. No, graffiare no, però rimane zitta, non ronfa, non miagola, capito? La mia, quando ero con i cataletto con le zappe mi palpava le tite, ma le premeva proprio, ed è il massimo dell'affetto che ti posso dare, perché ripristinano quando la madre mi sa da mangiare. Esatto, loro ricordano l'allattamento e quando facevano quelle zampettate lì sulla ventre della madre. Un attimino che stanno parlando, Bruno, ma tu non ci avrai massa sicuramente, controlla perché non stai uscendo, il radio sta uscendo bassissimo. Ma è a casa? No, deve essere in macchina, però dice che ha cambiato di microfono, è la stessa cosa. All'inizio sì, poi come ha scaldato sta uscendo basso. No, oh, già arrivi bene adesso. Ok? Avanti, Marco. Oh, che te devo dire già? Preferirei ascoltare che parlare. Sta venendo anche la Biocco. Ma sai perché? Perché mi sono preso il bicchierino. Abbiamo cenato, ho pranzato un po' tardi oggi. Mi sono preso il bicchierino e c'ho la palpebra calante. Vediamo se sto. Prova. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok. Stasera ci sentiamo, buona serata a tutti. Così, di punto in bianco. Sta venendo la Biocco. Pure a te. Non ho ricordato un po' cosa, c'erano gente a pranzo e se quando sono andati non ho potuto riposare, capito? Io mi sono bevuto il bicchierino di Vov e mi sta calando la palpebra. Sì, addirittura, per un Vov. No, per il post prandium, dai, più il Vov. Ah, ecco, come aperitivo cosa ho preso? Campari? No, niente aperitivo. Paga. Vabbè, vi lascio che mi sto addormentando, se mi addormento vi lascio così a bocca aperta. Sì, vabbè, anche io stacco, dai. Poi più tardi si vedrà. Ciao Natalino, ciao l'ascolto, ciao Emanuele, chi altri c'era? Fabio, vabbè, Azzardo, non mi ricordo lì. Pino c'era anche prima, vabbè, ciao a tutti, dai. Antonio Riserva. Lui, non mi ricordo più i nomi già, poi lo sento una volta ogni mille anni a lui. Ciao a tutti, ciao Marco. Già entro poco io, vabbè, ciao, buon riposo già, ciao a tutti. E anche Emanuele, ciao Emanuele, ci sentiamo. Ciao Marco, ciao Gianni, da più tardi. Allora, CQ canale 10. CQ, canale 10, c'è qualcuno? C'è qualcuno su 10? Oh, prova. sono Antonio. Ehi Alto, cosa c'è, dimmi? Niente, stavo finendo di chiudere i copperi di questo apparato, così poi lo posso spedire. Te lo stai vendendo? Venduto, No, lo, beh, gli ho messo a mano per venderlo, se no sarebbe rimasto lì nello scaffale 30 anni. Perché non è accessibile a tenerlo? In che senso? È molto difettoso. No, l'ho riparato, è che era... Però non lo scaffale, dovevo sempre ripararlo, è inutile che lo riparo quando poi non lo uso. L'ho riparato perché me l'hanno chiesto. Vabbè, io ne stavo cercando uno buono, ma lo voglio comprare da qualche ditta, capito? Perché così almeno mi dà la garanzia. Eh beh, chiaramente sì. Tu cosa volevi comprarti, perché? No, anche un 140 va bene, dai. Vai. Chissà se se ne trovano più. Sì, ci sono sempre in vendita. Ma non so mai se sono toccati, capito? E quello è il problema. Ci sono 430, 140. Ce ne sono diversi in vendita. Ogni tanto su subito ne metterò qualcuno. No, non lo so, perché a me questo qui me l'ha chiesto direttamente un amico mio di Ozieri per il suo suocero che ha questa passione e voleva uno di questa serie, e qui gli ho detto io ce l'ho uno, però ho detto non lo so, devo controllare, sono andato a controllare, non la ce ne farei anche, adesso glielo sto revisionato, me l'ho appena tarato. Sto facendo un controllo, non ho neanche un alimentatore adatto, per giunta, perché sto andando con un alimentatore da 10 ampere, se sollevo se ne va in crisi e niente, però sembra che stia andando bene, da, così lo posso spedire e si arrangia. Cappa, va bene. Bene, e come ma tu ce l'avevi per lo tempo fa un 140 già? Io ne ho avuto 4 ne ho avuto. E ho fatto la cassata di venderlo anzi. Praticamente quel 140 l'avevo comprato da Tecno Comunicazioni, gliel'avevo chiesto se l'avevo uno, mi ha detto no, però devo andare a fare la fiera. Se in fiera ne ritiro qualcuno buono te lo faccio sapere. Gli ho dato il numero, mi ha chiamato e mi ha detto guarda Gianni, mi è entrato uno, l'ho anche testato ed è perfetto, non c'ha nulla da fare e non ha un grafio, niente. Io so che tu sei pignolo, ha anche un MC60, però è un po' consumato, non graffiato ma consumato, quindi so già che tu non lo vuoi quello lì. Se tu te lo vuoi nuovo, mi ha detto l'MC60, ti faccio uno sconticino e ti te lo do nuovo, costa 170 euro nuovo e l'ho preso nuovo. E aveva un apparecchio che andava benissimo, solo che tutti cominciavano, è troppo alto, è troppo basso, è abbassa quel microfono, poi entrava l'altro e ti diceva perché l'ha abbassato, era meglio prima. Cazzo, sono impazzito e infatti lo terrò solo per ascolto e basta, non ne uso per entrare, così almeno non mi rompo le palle che ogni volta dovevo stare abbassando, alzando, facendo, regolando, e allora è meglio il baracchino. Ehi già, vabbè, ma se tu lo regolavi come si regola normalmente, non ci sarebbe stato nessun problema, cosa c'entra? A parte il fatto che tu non è che sei tenuto per forza a dire alle persone quello che stai utilizzando, e in secondo luogo, comunque, una volta che lo sai, no, il 140 va tarato in quella posizione lì, il making va sotto la C, il level va lì, cioè, se no non puoi fare nient'altro, poi se ne accorgono perché è l'MC60 al limite, però può essere per uno una modulazione troppo forte, per l'altro potrebbe essere più cupa, meno cupa, però ognuno si arrangia, no? Che può capitare anche se stai usando un brutto, usato un Mac, un Magnum, un Excalibur, un affanculo. Sì, ma andava bene per quelli che erano dall'altra parte della città, andava male per quelli che erano vicino, capito? Quindi io non sapevo più come regolarlo. Se abbassavo mi dicevano troppo basso quelli che buttavano di distanti, se altri mi dicevano che ero troppo alto, quindi alla fine mi sono rotto le scatole e l'ho venduto come l'ho pagato, la verità, non ci ho perso nulla, non ci ho guadagnato nulla, e ed era perfetto. E la persona a cui l'ho venduto se l'ha rivenduto lo stesso, oppure se non so che fine ha fatto, ma quello non era mai stato toccato, capito? Era perfetto. A me me l'ha aperto per controllarlo, l'ha controllato tutte le frequenze, parametri, tutto quanto, era tutto a posto, non c'era nulla da fare, mi ha detto. Non ci ho messo manco lavoro perché dice non c'era nulla da fare. E me l'ha spedito, era perfetto, l'ho prodotto solo a Corio per mettermi i decimali, perché io non sapevo come si faceva, l'ho messo i decimali tutto lì, ma era un bombo quello lì. Ho capito già, Boh, non dipende, molte volte sai, comunque, ripeto, in ogni caso, io adesso sono qui e sto usando questo e sono lì a due passi da casa tua. Se tu fossi stato più vicino a me non sarebbe cambiato niente. Se fossi stato a Muros, un esempio, mi avessi ascoltato più basso, per carità, però non è che può cambiare niente, non è che se io utilizzo questo che sono vicino a casa tua tu mi ascolti male, non esiste. Lo sai come funzionano qui queste cose, no? E quando dici ho attaccato lineare, come mi senti? Oh, male, io bene, io peggio, io più alto, più basso, più cupo, più dritto. E ognuno dice la sua. Esatto, però bisogna vedere poi alla fin fine chi è che ti sta dicendo veramente come stai uscendo, quindi alla fin fine tu devi sempre fare testo a quello che sei tu e poi sentire, basta non dire niente, tu entri, sei qui, ciao a tutti e poi se c'è qualcuno che ti deve dire qualcosa te lo dice in maniera spontanea, se glielo vai a cercare già sta già diventando una capita. Buonasera. Sì, ciao Gavi, avanti. Buonasera Gianni, buonasera, l'amico, non l'ho riconosciuto. Non l'ho riconosciuto perché forse non l'hai mai sentito, è Antonio Riserva. No, ho capito. Buonasera Antonio, Gavino da questa parte. Sì, ciao, buonasera Gavino, ben ascoltato, ti sento proprio al limite, io non sono in condizione buone per ascoltare comunque, però ti sento. Buonasera, vieni avanti. Buonasera. No, vabbè, sto facendo anche un briciolo utopente. Niente di che. Avanti Gianni. Ehi, avanti. Vabbè, Antonio Riserva è un vecchio CB, Gavi, ex riparatore di apparati, eccetera, eccetera. Adesso ha intrapreso la sua carriera e non è riparato, è diventato signore. Sì, lui non ha più già, non è vero, non ha più già. Anto, a te la parola. Sì, no, l'ho ascoltato e no, perché lo sento, però questo deve essere qualcuno qua nel palazzo di fronte a qualche sistema di videocontrollo, no? Che ogni tanto mi dà delle scariche. No, non è che io sono diventato ricco, è che non è che si può campare già da arrivare a parlare parecchie. Vabbè, quello sì. Vabbè, ma proprio l'hai abbandonato il fatto di riparare apparecchi. Prima lo facevi, io me lo ricordo, qualcuno te l'ho portato anche io quando eri in viaggiotto. Mi ricordo che allora le riparavi parecchi. Sì, allora ne riparavo tanti. E beh, me ero appena... lì quando ero in viaggiotto ero appena sposato, c'avevo la bambina di un anno, poi niente, sono stato contattato da una ditta, ho fatto un corso, sono andato a lavorare per una ditta che faceva impianti di antifurto, di sistema di videosorveglianza. Allora era un grido, in quell'epoca la videosorveglianza era un grido, e quindi sono andato a lavorare lì, sono stato tanto tempo fuori, no, ma per carità, qualcosa la faccio anche adesso, però come si dice, amatoriale, da? Ma lo fa per mestiere, da, per lavoro. Avanti, Gavi. È positivo. Non so, mi copri adesso Antonio, mi copri meglio adesso? Beh, sei passato da 9 a 9 più 15, sì, adesso ti sento bene. È positivo. No, ma infatti non c'è tanto. Quello che manca qua secondo me è un, diciamo, una rivendita di queste cose, una rivendita, quello già mancami, perché va a cercare una rivendita seria, che va a cercare anche pezzi per costruire un'antenna, una cosa, ma non parlo solo roba di CB, elettronica in generale, condensatori. Secondo me condensatori li stai cercando, non lo trovi a Sassari, ma neanche in Sardegna. Sì, no, già, sì. Sono d'accordo con te pienamente, in effetti anche io ormai anni che non compro più niente qui, anche perché non è che tutte le volte che andavo a comprare qualcosa mi dicevano ehi, tu vieni una volta all'anno e mi chiedi una cosa, che io vengo una volta all'anno, io vengo una volta ogni 6 mesi, lo so, se vengo una volta all'anno è perché sono sicuro che tu quello che a me interessa non lo hai, quindi se vengo una volta all'anno è perché mi serve qualcosa di urgente e non ce l'hai lo stesso, e quindi funziona così. Io ormai non vado più neanche qui, guarda, sono 5 giorni alla settimana sono a Cagliari e non li trovo neanche lì, quindi quando mi serve qualcosa io ordino tutto su internet, in 3 giorni arriva